Si può fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a te Carlo, tutto buongiorno, bene? Buongiorno, tutto benissimo, buongiorno e buona domenica ai nostri ascoltatori e anche a te Laura ovviamente. E i nostri ascoltatori che possono oggi chiamare l'824 0024 per l'indovinello, ovvero per indovinare qual è il personaggio della settimana. Mi piace sempre moltissimo chiamarlo indovinello, scusa. Indovinello chi sì. Fa l'uovo nel cestello, non so se lo dicevano a te da bambino. No, pensavo che fosse questo l'indovinello. Che bisognava chi è l'autore di Indovina Indovinello? No, allora, giustamente 800 24 00 24, perché oggi c'è il personaggio della settimana. Vi diamo degli indizi, adesso Laura vi darà subito il primo indizio e chi lo indovina si porta a casa due biglietti per la mostra di Erwitt al MUDEC di Milano. Precisamente, mostra che si intitola Family. Il primo indizio, sentite che Carmelo Lauricella ha già piazzato la base, no? Per ricordarvi un po' tutto. Tra l'altro saluto Barbara Bianchi oggi in assistenza, sempre più spesso viene a farci compagnia la domenica. Il primo indizio è questo: il personaggio della settimana ha aspettato a lungo. E come sempre ricordiamo che noi diciamo il personaggio può essere uomo, donna o addirittura cosa, a volte è stata la luna o il razzo che andava, un avvenimento, quindi sbizzarritevi, ovviamente deve avere una notizia avvenuta in questa settimana, perché vi chiediamo come mai avete proposto quel personaggio e specifico. E quindi va un po' spiegata, se no 349-238-6666 come sempre per intervenire nel corso della trasmissione con i vostri messaggi, le vostre osservazioni su quello che appunto si discute. Vorrei prima di così intanto gli ascoltatori prendono carta e penna, no, per la tua ho un libro bellissimo un libro oggi. Bellissimo questa settimana. Vorrei così far notare a tutti che finalmente il governo ha arruolato degli esperti per togliere di mezzo un po' di burocratese. L'abbiamo appena letto sul Corriere della Sera. La settimana prossima ci torniamo senz'altro. Ha arruolato la Crusca. Speriamo che la Crusca non sia un po' troppo alta. Esatto, cioè che non peggiori la situazione. Ma noi li conosciamo, quelli della Crusca. In realtà sono veramente bravissimi sulle parole, quindi staranno facendo un ottimo lavoro. Li vogliamo sentire per capire quali parole trasformeranno come anche. Esattamente, come trasformeranno certi modi di dire che troviamo su certi orribili moduli della pubblica amministrazione, lo sentiremo senz'altro la settimana prossima. Invece, che libro ti ha accompagnato nel corso della settimana? Guarda, ho letto veramente un libro incredibile, potente e sincero. L'autore è Philippe Lanson, un giornalista che il 7 gennaio del 2015 è a Parigi alla consueta riunione di redazione della rivista satirica Charlie Hebdo. Se ne va presto perché oltre a fare il critico per Charlie, lui scrive anche per Libération. Ma sulla porta si attarda per mostrare un libro all'amico Cabu. Irrompono due terroristi che sparano con fucili automatici per due lunghissimi minuti a qualsiasi cosa si muova. La storia è nota, è una carneficina, resteranno a terra 12 morti e 11 feriti. Philippe Lanson lentamente si accorge di essere fra i sopravvissuti, anche se non è molto sicuro di esserne contento. È ferito alle mani e alle braccia, ma soprattutto ha perso mezza faccia, dal naso in giù. I colpi di Kalashnikov dei jihadisti l'hanno orrendamente sfigurato. La traversata, così si intitola questo libro, edizioni E.O., è il racconto dei 9 mesi di odissea ospedaliera per ricostruire e rieducare la sua nuova faccia, per ricostruire e rieducare lo stesso nuovo Philippe, che non potrà mai tornare ad essere quello di prima dell'attentato. È un libro intimo, struggente, ipnotico, sono 500 pagine che vorresti non finissero mai, perché incredibilmente è un libro... mi viene quasi da dire che ti tiene compagnia, anche se è una brutta espressione. Però la vera cosa è che Philippe Lanson non parla del terrorismo islamico, se non come causa del dramma ovviamente, ma lui ricostruisce fra memoria e allucinazione, fra la letteratura e gli incontri con il personale medico, chi siamo noi, cos'è la cultura, cosa ci lega tutti come esseri umani di una società globale e multietnica. È una vera e propria traversata verso una nuova consapevolezza tristezza che comprende il passato anche onirico del protagonista e anche il passato dell'umanità tutta, compreso Proust, francese ovviamente, Bach, Velázquez, Kafka, il cinema, tutto, ma soprattutto è un inno agli esseri umani, perché poi i protagonisti diventano le infermiere, la chirurga, gli agenti di sorveglianza. A tratti mi è parso uno straordinario catalogo affresco delle risorse umane, dei nostri talenti, dei nostri limiti, delle nostre imperfezioni, della nostra unicità in una generale somiglianza. È veramente un capolavoro letterario assoluto che mostra nella pratica, nella vita cruda e dolorosa, che l'umanità tutta si tiene per mano. È commovente, ma soprattutto, e questo veramente non me l'aspettavo, è un libro di grande conforto. È strano che possa essere di grande conforto visto, no, quello che, esatto, di cui ci hai parlato. E però... non si risparmia niente, eh? È terribile anche nei particolari, se vogliamo. Quindi non è che uno dice vabbè, non parla di quella questione, parla d'altro. No, è veramente la cronaca quotidiana sia dei suoi problemi, diciamo, medici, ma uniti in realtà a che cos'è il mondo, a lui che rilegge la Recherche, appunto. Poi c'è Kafka e poi c'è anche la televisione, le notizie. Le persone che incontra, l'umanità delle persone che vengono da tutto il mondo, come in ogni città, che sono a Parigi e che si occupano il chirurgo, ma ci sono anche cose stupende. A un certo punto lui dice: ma mi sembra che fosse un libanese, e poi scopre che è un brasiliano, come succede a tutti noi, no, nella vita, semplicemente che tu per le stanghette degli occhiali di un chirurgo lui dice una... esatto, secondo me è libanese, poi invece è brasiliano. Appunto, siamo tutti talmente globalizzati e multietnici che veramente farsi la guerra per geografia non ha veramente senso. Non c'è che conoscere, diciamo, il mondo, no? Senza chiudere. E direi che un po', sia pure ovviamente in una situazione diversa, in un contesto diverso, è un po' quello che vuole fare la nostra ospite tra poco. Te la presento subito. Lei è Simona Guglioli, direttore del Museo di Scienze Naturali Orlandi di Voghera. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Voi avete appunto buongiorno aperto il museo alla pausa pranzo, no? Proprio perché bisogna conoscere, bisogna interagire, è bello, approfittiamo dei momenti liberi che abbiamo per scoprire qualcosa di nuovo. Come funziona questa iniziativa dei 30 minuti al museo? Praticamente abbiamo voluto dare delle pillole di curiosità, di piccoli aneddoti. Perché ci siamo accorti che da una parte, appunto, Voghera non è solo lo stereotipo della casalinga e delle 3P, ma insomma, vabbè, logicamente nella pausa pranzo anche noi abbiamo persone che sono in giro e che così devono occupare il loro tempo. Che invece di stare sul telefonino possono passare da voi. Esatto, è gratis e tra l'altro la curiosità, perché non so, adesso abbiamo parlato di tanti vogheresi illustri, perché Voghera comunque era stata abbastanza importante con alcuni personaggi nel passato e non so, ci sono i nomi delle vie che li ricordano oppure delle lapidi, ma nessuno sa più chi sono stati. O anche persone più recenti, ma che un po' Voghera si è dimenticata. E allora abbiamo detto, visto che in museo abbiamo fotografie, documenti, reperti che riguardano queste persone, perché non parlarne e trovare mezz'oretta di tempo per così trovarci tutti insieme nella pausa pranzo? E quindi così avete deciso e avete fatto. Ogni settimana di febbraio ha avuto un tema, come diceva, appunto, dedicato una volta all'esposizione di reperti, leggo, di Arturo Negri, geologo vogherese di fine Ottocento, un'altra volta invece si parla di paleontologia, un'altra volta, esatto, no? E quindi date un tema e in quella mezz'ora, diciamo, si sviluppa come tipo una piccola conferenza, come va? Ci siamo prima, vabbè, tutti ritrovati nel salone guardando appunto questi documenti e ho intrattenuto un po' con la storia di questi personaggi, poi siamo andati nelle sale dove sono esposti i reperti che riguardano queste persone e poi abbiamo visto anche del materiale che non è esposto per diverse ragioni e quindi è stata un po' una curiosità perché erano anche materiali che nessuno magari aveva ancora visto. Ma si mangia? Giusto, chiedo scusa per la brutta domanda, però voglio dire, uno alla pausa pranzo. I mezzi di sostentamento qua non mancano mai. Perfetto. Caffè. No, perché mi sono anche immaginato, mi sembra straordinario di farlo dalle 13.30 alle 14, perché è proprio il momento in cui sicuramente la casalinga di Voghera è a casa sua. Sta facendo la pelle, esatto, assolutamente. Esatto. No, no, gli altri che devono ritornare al lavoro si prendono un caffè, un cioccolatino e poi rientrano con calma. Sta andando bene? Sì, sta andando veramente bene e adesso abbiamo deciso di alzare un po' il tiro a marzo. Vorremmo anche le cene, anche le cene fate? No, no, quello ancora no, magari gli aperitivi con bello, qualche vino locale, certo. No, abbiamo deciso di parlare di vogheresi un pochino più recenti, come ad esempio la famiglia Maserati, quelli della famosa ditta. Quelli della, certo, Maserati. Sono nati a Voghera e hanno fondato la Maserati partendo da Voghera. Oppure Severino Grattoni, che è quello che ha progettato il tunnel del Frejus. Poi dobbiamo un attimino capire, perché vorremmo parlare anche dal blu di Gualdo al rosso Valentino, cioè il blu di Gualdo era il blu dei jeans, per intenderci, certo, che è stato inventato un po' qui nella nostra zona, e vabbè, Valentino ha origini vogheresi, però vorremmo capire se prima di tutto gradisce lui che ah beh, parliamo, certo, di lui, ecco. Ma certo. Quindi vediamo un attimo. Comunque si va avanti, ecco, passiamo al mese prossimo, insomma state già, sì, progettando il futuro. Sì, perché appunto ho avuto veramente un riscontro notevole e quindi è giusto andare avanti. Ma normalmente voi sareste stati chiusi a quell'ora oppure? Sì, noi riapriamo alle 2, però appunto ne è valsa la pena, perché a parte il pubblico diverso, che non è un pubblico che avremmo intercettato normalmente, ma poi anche il fatto di raccontare queste storie, abbiamo appassionato un po' i vogheresi alla loro storia, ecco. Complimenti veramente, perché spesso basta poco, cioè basta cambiare l'orario improvvisamente, basta creare, se no uno magari non ci pensa, non esce di casa e non va a sentire queste storie, quindi la trovo un'iniziativa lodevole, complimenti. Poi guardi, è anche un'iniziativa a costo zero per l'amministrazione, perché logicamente non ha costi. E se la gente l'apprezza, ben venga di nuovo. Abbiamo due assessori, uno alla cultura e uno ai musei. Uno è giovanissimo perché ha 23 anni, l'altra un po' diversamente giovane come me, ma sono tutte e due super motivate, quindi credo che si possa fare molto di più adesso. Grazie molte. Grazie Simona a voi, Guglioli, grazie. Direttore del Museo di Scienze Naturali Orlandi di Voghera. Buona giornata, c'è la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ripetere il titolo del libro, che vedo che tanti chiedono di ripeterlo, certo, così che sì, prendono nota. Comunque poi starà su Facebook, come assolutamente ogni anche settimana. Sul mio Facebook personale lo ritrovate. La traversata, scritto da Philippe Lanson, edizioni E.O. Benissimo. È quello delle edizioni dell'amica geniale, così magari uno. In copertina c'è un bellissimo quadro di Burri, è molto rossa la copertina. Insomma, in un modo o in un altro lo trovate, sì, ecco, sì, direi. Sì, assolutamente. O per casa editrice, o per colore, o magari meglio ancora per autore. Comunque ci arriviamo. Esatto. Allora, invece, tutta la verità, per favore, sul glifosato è il titolo di un articolo che è comparso recentemente su La Repubblica, nelle pagine di Scienza e Ambiente. E tra gli autori vediamo Stefano Bocchi e Caterina Laporta. Stefano Bocchi è al telefono in questo momento. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Buongiorno. Professore buongiorno. Ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università degli Studi di Milano. Noi, più che parlare di glifosato, che è poi il tema da cui prende spunto, diciamo, la questione da cui prende spunto l'articolo, vorremmo poi portarla un po' più sul tema ricerca, di cui in questo periodo con il coronavirus si è detto molto. Ricerca libera, diciamo, ricerca indipendente pubblica. Esatto, perché lei qui traccia appunto dei passaggi che sono stati importanti, no, sulla questione glifosato, ricerche che dicevano non pericoloso, dall'altra parte ricerche invece di tutt'altro segno. Sì, riprendevo il caso del glifosato perché mi sembra emblematico e interessante per capire poi quali sono i problemi complessi, ma poi, come dicevamo, quali possono essere le soluzioni, perché giustamente, insomma, non possiamo parlare di problemi senza le soluzioni. Non si può fare, noi siamo una trasmissione che vuole quelle soluzioni, esatto. Per l'appunto. E quindi sono molto contento di, come dire, interagire con voi. Allora, qua il problema è anche è principalmente la commistione, diciamo, o la non chiarezza quando si fa della ricerca su chi poi dopo la sostiene, no? Perché da una parte alcune di queste ricerche sul glifosato poi si è scoperto essere state finanziate da una ditta che è la Monsanto, che ha un diretto interesse sul glifosato, e altre ricerche invece che erano pubbliche indipendenti poi hanno rivelato una situazione diversa. La questione è come si concilia e come si presenta poi al pubblico il risultato di una ricerca. Sì, esatto. Tra l'altro vorrei premettere che la ricerca finanziata dal settore privato è legittima, anzi direi assolutamente necessaria per alcuni versi, però poi ci deve essere una ricerca pubblica, perché soprattutto su problematiche complesse come possono essere quelle toccate dal settore agricolo e direi anzi dal sistema agroalimentare, ecco, ci deve essere appunto una ricerca altrettanto potente, se non di più, che arriva dal settore pubblico. Come dicevo, quindi una ricerca indipendente e poi aggiungevo anche interdisciplinare, perché diciamo il titolo un po' provocatorio della Repubblica è Tutta la verità, voleva richiamare l'attenzione sul fatto che solo una parte della verità, quindi soltanto diciamo quello che può essere trovato attraverso ricerche disciplinari, magari molto specializzate, quindi solo una parte della verità, non garantiscono poi la soluzione, cioè se c'è un problema di inquinamento. Certo, infatti giustamente, a parte che volevano credo richiamare Tutta la verità per favore sull'amore, il famoso titolo, ma in realtà lei sta dicendo molto giustamente che la ricerca privata è fondamentale, importantissima. Forse è proprio per questo che serve l'altra metà della ricerca, che è quella invece pubblica, che è di controllo, perché ovviamente se io devo cercare una cosa, trovare un nuovo prodotto per poi metterlo sul mercato, ho deciso che è quello, ne produco tantissimo e lo metto sul mercato, non sarò io a dirmi no, invece mi sono accorto che forse fa male a qualcuno, deve essere per forza di cose qualcun altro che dice ben venga questa cosa, però non la puoi fare così, cambia una cosa, perché sennò crei questi danni. Esatto, ma d'altronde dobbiamo prima di tutto riconoscere che l'autorità pubblica c'è in termini di controllo, anche il punto di antiparassitari, agrofarmaci eccetera, però ci sono anche delle indagini che non vengono così diffuse, e mi riferisco all'indagine di ISPRA, che è un'agenzia del Ministero dell'Ambiente italiano, che nel 2016 ha diffuso un dato secondo me molto interessante, secondo cui molte delle nostre acque superficiali, nostre in termini di Lombardia, Piemonte, Veneto, sono inquinate da appunto diversi agrofarmaci, ma soprattutto, ed è ovvio, quelli più utilizzati, cioè glifosato e il suo metabolita, cioè il suo diciamo prodotto che ne esce dopo l'utilizzo, dopo che è stato utilizzato e distribuito, diffuso nell'ambiente. Quindi ci sono, diciamo così, elementi di controllo, però questi elementi di controllo che arrivano dal settore pubblico non sono così potenti, diciamo così, rispetto a quello che è un apparato non soltanto di ricerca, ma anche di comunicativo. E come mai questo? Cioè, immagino che sia una questione economica, nel senso che di là ci sono dei forti interessi economici, quindi c'è qualcuno che investe, e di qua c'è lo Stato che invece spesso arranca e ha problemi di assunzioni. Sì, un po' tutto, e poi è anche difficile, aggiungerei, oggi organizzare gruppi interdisciplinari di studio. Uno, perché arriviamo da una cultura, abbiamo ancora una cultura che apprezza moltissimo, ed è giusto, la specializzazione, però non siamo ancora pronti, anche nelle nostre università, anche nei nostri centri di ricerca, di organizzare gruppi interdisciplinari dove non c'è soltanto l'ecotossicologo o il medico o il chimico, ma ci sono anche appunto coloro che riescono a effettuare un'analisi di sistema, e la parola sistema purtroppo in questi casi dovrebbe essere usata molto, purtroppo non viene quindi utilizzata. Diciamo che forse dobbiamo superare questa ultima, diciamo, decennio di mania di specializzazione, dobbiamo ricominciare a riaprire. Sì, cioè le specializzazioni, anche qua bisogna evitare equivoci. Le specializzazioni sono assolutamente necessarie e utili, e quindi andiamo avanti, però deve essere fatto anche appunto un qualcosa di più, e quindi arrivare nelle nostre università, nei nostri centri di ricerca, a organizzare gruppi di ricerca interdisciplinari. Lo dico perché così arriviamo alla soluzione, cioè nel campo ad esempio agricolo si parla di agroecologia, quindi di uscire da categorie industriali, quindi applicazione di tecniche, tecnologie, ma anche di valori che arrivano dall'industria, e invece applicare quelli dell'ecologia, quindi poter analizzare il sistema così com'è nella sua interezza, e quindi arrivare a delle soluzioni. Certo. Faccio un esempio, quindi l'industria si chiederà, ma va bene, accettiamo il fatto che il glifosato non vada bene, e lo sostituiamo con un altro magari meno tossico. Ma non è solo questo il problema, la domanda potrebbe essere, ma riusciamo a ridurre o addirittura ad annullare in alcuni casi o in molti casi l'uso di diserbanti con altre metodologie, come appunto si parla di agricoltura integrata? Ecco, allora la ricerca in questo settore è ancora abbastanza carente, forse perché all'inizio, ecco, direi, la vedrei in modo positivo. Va bene. si può fare ricerca, si può, direi, assolutamente. Si deve fare insieme, pubblico, privato e con gruppi di lavoro, come ci diceva Ampi. Noi purtroppo dobbiamo salutarla, ma torniamo volentieri sull'argomento in futuro. Stefano Bocchi, professore ordinario di agronomia e coltivazioni erbacee presso l'Università degli Studi di Milano. Buona giornata, c'è GR24 e torniamo tra pochissimo, subito dopo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ci sono molti che vogliono indovinare l'indovinello e quindi abbiamo deciso di iniziare con Carla, se non ricordo male, giusto? Carla dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci dica, secondo lei, chi ha aspettato a lungo? Secondo me è un presidente italiano che ha dovuto rimanere in Cina parecchi giorni perché aveva la febbre, che ieri o l'altro ieri finalmente è rientrato. Mm-hmm. Sì, ieri mattina. Ieri, in diretta con noi. Più o meno, sì. Allora, no, è vero, lui ha dovuto aspettare, che ha perso ben due treni, diciamo che in realtà erano due aerei prima di poter tornare. Sentiamo un po'. Non è Niccolò, ma la ringraziamo, così salutiamo anche Niccolò, e che ricordiamo anche che è risultato negativo al test, quindi non ha il coronavirus. Deve stare ovviamente rinchiuso lì nello Spallanzani per tutto il tempo necessario, ma al momento non ha, il test è stato negativo. Donatella dalla provincia di Lecco, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, chi ha aspettato a lungo secondo lei?

Il notaio ha il cuore di pietra anche di fronte ai familiari delle vittime di la strage di Bologna. Esatto. E non era questo il nostro personaggio, ma ricordiamo ovviamente i 20 anni. Grazie Luigi. Abbiamo spazio. I 40 cioè, anni vogliamo, volevo dire, chiedo scusa. Vogliamo dare un secondo indizio, cosa dici Carlo? Magari visto che stentiamo un po' questa mattina, magari aiutiamo un giusto, po' chi... Giusto, giusto, giusto. Allora, il personaggio che stiamo cercando ha dimostrato bravura sul campo. Pausa, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora andiamo avanti nel tema appunto beni confiscati e vogliamo parlare con un sindaco che ne ha diversi e che insomma si sta domandando come gestirli prima, no? Il passaggio successivo, insomma, se prima se ne occupa Libera, fa in modo che vengano sì, liberati, e però poi bisogna capire che cosa farci, come gestirli, bisogna anche chi avere un li sacco prende di idee, esatto, per, no, inventare che cosa fare che sia utile, che sia simbolico, che sia ci sono tanti, no, tanti temi da affrontare. Con noi è in collegamento Antonio Diplomatico, che è il sindaco di Bosco Reale, provincia di Napoli. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno sindaco. Allora, tra le proposte abbiamo visto che in una delle ville sul suo comune, che sono state sequestrate appunto alla Camorra, lei ha proposto di installare una caserma dei carabinieri, guardia forestale. Ci pare ovviamente un ottimo segnale. Si può fare? Sì. Sì, si può fare sicuramente perché diciamo... c'è una richiesta da parte, ma già da un anno, da parte del comando dei carabinieri della forestale di avere una villa. Stavo scherzando. Diciamo, non una villa, per carità, voglio dire, loro, io stavo cercando tra il patrimonio di sistemarli, però è un po' complicato in quanto poi hanno bisogno, diciamo, di spazi distanti, devono essere rinchiusi per motivi di sicurezza, ovviamente. Però ovviamente avendo questa villa o questi appartamenti, qualcuno di questi sicuramente si potrà realizzare. E questa è una delle cose anche che io metterò a disposizione di tutte le forze, anche di carabinieri oppure di altre forze di polizia che vorranno usufruire di questi alloggi. Ma questo perché, come ci sta dicendo, c'è un'esigenza da parte loro o è anche un atto simbolico, come a dire, no, questo? Sicuramente è un atto innanzitutto simbolico, prima simbolico e poi di utilità, diciamo, noi abbiamo già una caserma dei carabinieri, certo, nel centro. Queste ville, questi appartamenti invece si ritrovano in una zona rurale. E di conseguenza è un atto simbolico sicuramente avere un presidio di legalità anche nella zona rurale, quella un po' più fuori mano. Senta, ma noi abbiamo visto che lei ne ha ben 39 di questi beni da gestire, sì, no? Ville, sì, no, in verità sono 40 perché uno rispetto all'articolo, quindi ce n'è uno in più adesso. Sì, no, e quello già invece l'ho acquisito perché ad agosto diciamo ho fatto il passaggio in consiglio comunale, in quanto vengono affidate ai comuni, però poi se non si arriva all'iter burocratico non si arriva alla fine, è affidata, però non è di proprietà del comune. Invece primo già l'ho diciamo acquisito, questi qui siamo nella fase iniziale perché da qualche mese l'agenzia e la prefettura me li ha affidati, quindi ci sono anche persone all'interno di queste case che ancora devono essere sgombrate, quindi è un po' lunga la cosa, però diciamo. Perché come funziona in quel caso? Nel senso che se sono beni di proprietà della criminalità organizzata che però sono stati affittati, il bene passa a voi, ma coloro che sono dentro in affitto come funziona? O non in affitto? Credo, no, credo che debbano essere comunque sgombrati tutti quanti. Diciamo, sono stati noi abbiamo fatto una riunione con i carabinieri e anche poi con l'ufficio tecnico e con i vigili, sono andati a prendere, diciamo, anche le misure di questi alloggi. Inoltre, diciamo, sono andati a notificare alle persone che devono andare via da, certo, da questi alloggi. Quindi saranno degli alloggi vuoti da ristrutturare eventualmente o da modificare. Io per esempio a Bosco Reale, per questi alloggi, anche se si ritrova in una situazione sempre di periferia, poiché è una serie di richieste da parte di indigenti, diciamo, vorrei utilizzarli per l'emergenza abitativa, per poter dare sollievo a queste persone indigenti per 6 mesi, per 1 anno, diciamo, in maniera che possano avere il tempo una casa, di trovarsi, certo, una casa, diciamo. Certo, quindi questa è un'altra, è ma certo, un'altra ci idea. Vuole, questo è un bisogno che ha la sua comunità, poi per tanti, sì, altri immagino che ci sia bisogno di avere un'idea, diciamo, magari, sì, non possiamo riempire l'Italia di musei etnografici, per dire, no? Che è la classica, d'accordo, soluzione. Lo so, sono perfettamente d'accordo che poi rimangono vuoti, inutilizzati, stanno lì, preside della legalità, però poi alla fine non fruttano niente. Io mi sono posto questo problema perché... Ma come mai restano vuoti? Mi scusi, nel senso che la cosa che mi chiedo è, c'è anche da parte delle persone che vorrebbero questo bene per farci magari delle cose molto belle, la paura di dire questo è un bene confiscato alla mafia, non vorrei che tornasse la mafia, ecco, detto molto semplicemente, o che guardi, si arrabbiasse, no, o che si offendessero. No, guarda, no, io non vedo in altri comuni diciamo, questi presidi della legalità, ma che poi vengano ad affidare magari ad associazioni culturali, perché il limite di questa, della legge, è che bisogna, almeno fino ad oggi venivano date ad associazioni, ma che poi alla fine non producono utile, nulla di concreto, utile. Io per esempio il bene che avevo già, che ho già acquisito, ho chiesto un finanziamento che ho ottenuto per farci, poiché si ritrova a distanza di 100 metri di 2 scuole, di 200 metri di una parrocchia, ho chiesto, diciamo, un finanziamento per farne una bella biblioteca multimediale, non di quelle cartacee che oggi purtroppo i ragazzi non leggono più, però stando lì vicino potrebbero essere, ecco, in una zona molto centrale, e può essere sicuramente fruibile, magari affidarla anche a qualche associazione. Però anche questa non produce, non produce utile, diciamo. No, utile, ma purtroppo è un limite, cioè l'utile al comune non c'è. Però ecco, un presidio di utilizzo per ragazzi può essere molto utile dal punto di vista sociale. No, questo assolutamente. È che mi piaceva il discorso che stava facendo, nel senso che ho la sensazione che se questi beni venissero usati anche per questioni commerciali, credo che sia ancora di più lo smacco alla mafia, perché se passa di lì dice questo non solo era nostro fino a un quarto d'ora fa, ma guarda quanti soldi incassa, e li incassano invece delle persone che pagano le tasse. È la prima domanda che ho fatto quando sono venuto all'agenzia dei beni a comunicarmi questa cosa, se erano spendibili per la comunità e anche per un reddito che potrebbe essere anche un minimo reddito, voglio dire, certo, al comune, ma insomma anche perché questo... non devono diventare un debito per il comune, perché altrimenti se uno si trova a mantenere qualcosa di questo tipo. Infatti io sono rimasto, quando siamo stati convocati dal prefetto, sono rimasto, diciamo, un po', come dire, meravigliato che io, un piccolo comune, all'epoca me ne erano 19, me li sono presi tutti, poi ne ho avuti altri 20, l'altro già ce l'ho. Il comune di Napoli, 94 beni confiscati, ne ha chiesti 4. Rimasi un tantino meravigliato. E gli altri non li ha... Non sono reclamati da nessuno, quindi? No, poi dopo il prefetto disse che c'erano, diciamo, delle richieste da parte dei carabinieri, della finanza, diciamo. Ma io credo che un'esigenza abitativa ci sia anche a Napoli, direi, no? Assolutamente, penso proprio di sì. Credo proprio di sì. Ma Quindi è curioso, per questo chiedevo se c'era anche una questione di non voler prendere questi beni perché qualcuno ha paura, molto semplicemente. Pure se è un debito. Posso rispondere, diciamo, ho visto anche altri comuni che hanno rifiutato tutto, questo poi ognuno si prende le proprie responsabilità, io di sicuro ho voluto tutto senza tralasciare niente, anche dei terreni che è difficile da utilizzare, però io ho una scuola indirizzo agrario e voglio darli a questa scuola, almeno qualcuno, per poterli far lavorare e quindi mettere in pratica, diciamo, quello che studiano. Una sorta di laboratorio. Una sorta di laboratorio dove possono andare a... È un ottimo progetto. Ha fatto molto bene, secondo me, a reclamarli tutti e a restituirli alla collettività. Poi adesso si deve trovare come, ma ci sembra straordinario. Allora le facciamo tanti complimenti e tanti auguri, perché di lavoro ne avrà tanto. Sicuramente. Ci faccia sapere come va a finire. Grazie ad Antonio Diplomatico, il sindaco di Bosco Reale, come ci ha ricordato lui stesso. Allora abbiamo tante cose da fare, Carlo, in questi ultimi minuti. Abbiamo anche i nostri concorrenti. Esattamente, c'è in attesa Lucia da Brescia. Buongiorno Lucia. Buongiorno. Allora, chi è secondo lei il personaggio? Allora, secondo me è la signora coreana, mi pare, o asiatica, che ha avuto la possibilità di entrare in contatto con la sua bambina grazie naturalmente alle nuove tecnologie. E questa è una notizia, secondo me. Ecco, premetto che ho sentito solo un indizio, non li ho sentiti tutti perché stavo guidando e non sono una brava autista, quindi ero molto contenta. Però ci deve stia attenta assolutamente alla strada, ma ci deve raccontare meglio questa storia. Caspita, allora io non l'ho letta, l'ho sentita e vista ieri sera al programma di Gramellini, mi ha anche un po' inquietato, devo ammettere. No, allora guardi, si è semplicemente dimenticata di dire secondo me una parola, perché la mamma che ha incontrato questa figlia, la figlia è morta e quindi è quello il punto, perché se no uno dice incontrato la figlia, dove? No. In una pizzeria? Pensavo di aver detto deceduta anni fa. Esatto. È un tema molto spinoso anche questo, che sicuramente spalanca delle questioni etiche, ma noi sentiamo il nostro notaio che non ha nessuna etica e vediamo. Va bene. In assenza di etica e anche di buon cuore, direi. Subito. Ci spiace. Forse parleremo in futuro di questa storia, che è comunque interessante capire se si può fare o se non si può fare. Esattamente, grazie a Lucia. Facciamo prima della viabilità, sentiamo anche Andrea da Firenze. Andrea, buongiorno. Buongiorno, ci dica Andrea. Io ho pensato alla ricercatrice dello Spallanzani che ha isolato il virus e che dopo un lungo precariato è stata finalmente assunta. Abbiamo il nome? Allora, io quando ho telefonato mi ricordavo solo il nome Francesca, dopo ho controllato si dovrebbe chiamare con la vita di cognome. Sentiamo, era giusto, nome e... Stavo prendendo tempo perché sapevamo ed è la risposta esatta, la risposta esatta. Però che buffo che si ricordasse il nome ma non il cognome, capito? Francesca. Forse perché prima non era assunta, adesso è stata assunta. Questa è una notizia... Quindi adesso le danno del lei, prima le davano del tu. Esattamente. Vabbè, vuoi che ne parliamo dopo il traffico di questa questione? Perché è una questione interessante, nel senso che siamo molto consci del fatto che andava assunta prima, però ci è sembrato di voler premiare il fatto di aver avuto questa attenzione a questo gruppo tutto femminile che in Italia ha isolato il coronavirus e quindi contribuisce tutto insieme poi alla ricerca internazionale. Ovviamente d'accordo che per avere un lavoro non è che bisogna isolare il coronavirus, se no nessuno ti assume, perché direi che è un po' troppo alta l'asticella. Andrea, senz'altro, poi guarda, io sono anch'io in ambito universitario, so benissimo qual è la realtà di tanti giovani che si impegnano a lungo e insomma le prospettive di carriera non sono spesso così facili, immediate, richiedono veramente molta passione, molto sacrificio, anche per tutti quelli che magari non ottengono dei risultati così eclatanti, ma che comunque svolgono un lavoro sicuramente importante. Grazie, grazie, grazie molte. Ha vinto 2 biglietti per la mostra fotografica Elliot Erwitt Family al MUDEC di Milano. Viabilità. Si può fare. Promo 24. Eolo, internet a banda ultra larga, porta connettività fino a 1 giga simmetrico anche alle imprese nella provincia italiana. Eolo Azienda è la connettività ultra veloce con soluzioni progettate su misura per la tua impresa, anche se si trova nei nostri comuni più piccoli. Eolo Azienda ti permetterà di navigare fino a 1 giga, attivare il servizio in soli 5 giorni e di ricevere sempre un servizio di assistenza immediata. Un team Eolo dedicato alla tua azienda, con una risposta telefonica garantita in 20 secondi. Per scoprire le offerte Eolo Azienda, chiama il numero verde 800 939 939, oppure visita il sito azienda.eolo.it. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. E andiamo da un premio a un altro in questi ultimi minuti della puntata di oggi, perché appunto dopo aver attribuito i biglietti per la visita al MUDEC di Milano, adesso diamo il premio L'altro pianeta. Siamo troppo generosi, dici? Tutto insieme? Vabbè, non lo so, qualcosa ci ritornerà, insomma, no? Al cor gentile. Allora, abbiamo in collegamento con noi Camillo Mazzola di Lego Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Perché il premio lo attribuiamo proprio alla Lego per questi mattoncini liberi dal petrolio di cui abbiamo letto, ci è molto piaciuto, li realizzate adesso in canna da zucchero, giusto? Esatto. Allora, si prendono gli scarti della canna da zucchero, immagino, cioè è chiaro che non è che ci priviamo dello zucchero. No, non credo proprio che vi priverete dello zucchero, comunque c'è, è in grande quantità. Potranno solo magari prenderselo un po' i dentisti, se i bambini mangiano un po' meno zucchero, ma non è il caso. Allora, questi nuovi mattoncini andranno via via a sostituire, no, la produzione tradizionale, vengono inseriti un po' alla volta. Esatto, vengono inseriti un po' alla volta, semplicemente perché dobbiamo garantire e mantenere la qualità del gioco e degli incastri dei nostri prodotti ed essere sicuri che ci sia il materiale finito, sia sicuro per i bambini. E siccome abbiamo diversi mattoncini, non so se voi sapete, ma abbiamo diverse, circa 2000 forme diverse. Chiunque abbia visto un bambino sa. Ma chiunque sia stato bambino, scusatemi, insomma. Io ho ancora i miei di quando ero Lego, bambina. Ci mancherebbe altro. Ma la vera domanda è: si attaccano quelli vecchi, quelli nuovi? Perché sennò, ecco, certo, tranquillizziamo questo, la popolazione. Anche questo è un elemento di sostenibilità, perché pur essendo attualmente in plastica i mattoncini, non sono destinati a essere buttati via, quindi anzi a essere conservati. E vi dico solo che il primo mattoncino, che era più di 60 anni fa prodotto, era in legno ed è attualmente compatibile con quelli nuovi, quindi non esiste il problema di buttare via i prodotti Lego perché non sono più compatibili con quelli nuovi. Che bello, però io lo vorrei il mattoncino di legno. Avete rifatti anche quelli di legno, se non sbaglio? Ce n'è qualcuno in giro per il nostro museo, ci sono, ecco. Ah, ecco. Non per l'uso normale. Va bene, vabbè. Comunque adesso via via quindi questi nuovi andranno a sostituire, no? Ma saranno compatibili con quelli vecchi. Quanta parte finora della produzione è stata sostituita più o meno? Dunque, nell'ultimo annuncio ufficiale eravamo al 2%. Posso stimare che adesso saremo arrivati a circa un 5%, ma perché così lenti? Perché, come l'ho detto prima, abbiamo circa 2000 forme diverse e usiamo diversi tipi di plastica perché ogni forma ha bisogno di caratteristiche diverse. Man mano che riusciamo a trovare una evoluzione di prodotti ecologici e vegetali che riescono a garantire esattamente la stessa qualità, li sostituiamo. Quello che posso dire è che entro il 2030 è l'obiettivo di raggiungere rifiuti zero, e cioè di rimpiazzare completamente le plastiche di origine fossile. Beh, mi sembra un ottimo obiettivo. Sempre questo 2030 troviamo sulla nostra strada, Carlo. Qui il 2030, esatto, cambia il mondo. Io c'ho un po' paura. Ma se uno li mette in bocca si sciolgono e sanno di zucchero? Ecco, questo no, assolutamente. Peccato. Non si mettono nel caffè. Anzi, posso dire che non sono per nulla distinguibili, neanche agli occhi di un esperto. Occorrerebbero proprio delle attrezzature per distinguere i due tipi di plastiche che... Non sono distinguibili, quindi non è che ci saranno delle confezioni dove c'è su scritto questi sono quelli nuovi, nel senso che non sono distinguibili. Non sono distinguibili nel senso che man mano le confezioni che produrremo conterranno una certa percentuale di mattoncini prodotti da canna da zucchero, in questo caso, fino a una completa sostituzione di tutti gli elementi di una scatola. Lo trovo straordinario perché questo è antidiscriminatorio, cioè è per non discriminare i vecchi mattoncini con i quali ho giocato io, e io ci terrei che ci giocassero anche i miei nipoti. E comunque quando ci saranno anche la classica forma di mattoncino, quella che conosciamo tutti noi, prodotta con questa plastica, non se ne accorgerà nessuno lo stesso. Bene, però appunto sarà diversa e noi lo sapremo, e quindi questo ci farà sentire un pochino meglio, perché sappiamo che stiamo col cuore lo sapremo. Senta, non fa male ai denti, non si scioglie, non sottrae neanche cibo all'umanità. Non si aprirà quella discussione che si è aperta con i biocarburanti. Ecco, proprio consapevoli di questo abbiamo voluto avere proprio tutto un ciclo produttivo controllato, e quello che noi in associazione col WWF, in collaborazione col WWF, abbiamo aderito all'Alliance Bioplastic Feedstock, che ha proprio l'intenzione di tutelare le coltivazioni dove questo canna da zucchero è prodotta, per far sì che non causino deforestazione o utilizzo improprio di acqua, e anche lavoro, sfruttamento del lavoro. Benissimo, grazie. Beh, ringraziamo molto, andiamo a casa a giocare. Esatto, perché la trasmissione si chiude qui, grazie a Camillo Mazzola di Lego Italia. Allora, facciamo tutti i ringraziamenti del caso, vero Carlo? Certo. In redazione Andrea Piano, Edoardo Lavezzari, Danilo Di Trani, in assistenza oggi c'è Barbara Bianchi, in regia c'è Carmelo Lauricella, in studio da Laura Bettini, un buon proseguimento di domenica, appuntamento alla prossima settimana. E ciao anche da Carlo Gabardini, buona domenica e ci sentiamo settimana prossima, si può fare 8:30, 10, sia il sabato sia la domenica. Ciao!